sera pianto, eppure canto, le luci addosso e tu mi manchi tanto. Davanti a me, laggiù in platea, c'è un posto vuoto ed un rimpianto. Bravo, bravo, bravo, bravo, ma io volevo un solo bravo, il tuo soltanto. Bravo, bravo, bravo, bravo, e ancora tu mi bruci dentro. E piano piano quel faro caldo addosso è la tua mano. Che senso ha? Io solo in un teatro pieno. Bravo, bravo, e canterò canzoni allegre in cui l'amore vince sempre. Bravo, bravo, bravo, bravo, e amarti a me non serve a niente. Bravo, bravo, ma che bravo, che me ne faccio adesso senza di te. Bravo, bravo, no, non si può cantare ancora, eppure canto. Bravo, bravo, bravo, bravo, ma io volevo un solo bravo, il tuo soltanto. Bravo, bravo, ma che bravo, ho il cuore.